lasciate perdere, in studio ci sono tutti allenatori bravi, professori, scienziati, vado via. Questa è una grande crisi, siamo in piena crisi, in grande crisi, quindi bisogna fare grandissima attenzione, sarà molto difficile rivincere lo scudetto in Italia. Questi mesi cosa hai fatto? Viaggiando molto e fatto un film. Tutti convocati di Giovanni Capuano. Ascolta, due cose. Beh, uno, la parola top player, che ormai aboliamola, non ne posso più, mi vengono i brividi. Famosi, è un termine che non mi piace, ma vedo che tutti voi usate questa frase top player, che non so cosa voglia dire, ma comunque una volta questi fantomatici top player venivano tutti in Italia perché c'erano grandissime risorse. Ormai i giocatori con certi stipendi e con certi costi di cartellini non sono più alla portata né del Milan né dell'Inter né della Juventus. Parlare di top player, parlare di giocatori normali, io non faccio nessuna distinzione. Oggi possiamo dire che siamo vicini all'acquisizione di certi giocatori che hanno un profilo ben delineato. Tevez. Niente, non penso che sia ufficiale ancora, no? Ecco. Allora facciamo così. Quando sarà ufficiale faremo le considerazioni più opportune. Sto bravo però a non risponderti. È inevitabile che stiamo parlando di un top player. E questo era Conte datato 8 dicembre 2012. Facciamo così, quando sarà ufficiale ne riparleremo, non è ancora ufficiale, sono passati 7 mesi, però da ieri sera Tevez è di fatto un giocatore della Juventus e quindi finisce la telenovela del top player in bianco-nero, una telenovela che è finita con la stretta di mano tra Marotta e i dirigenti del Manchester City. Carlos Tevez atterrerà tra un'oretta alla Malpensa, poi via in macchina a Torino. E poi le visite mediche, poi la firma sotto il contratto, la presentazione e poi credo anche un bel sospiro di sollievo per Marotta, che da 2 anni era inseguito da questo incubo, l'incubo del top player, da quando, ed era il 25 maggio del 2011, disse: tutti i grandi calciatori che abbiamo sondato hanno dato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino anche se non andremo in Champions League. Non era vero, sono serviti 2 anni e un mese esatto. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, chiocciola tutti convocati se volete scriverci su Twitter. Io saluto subito e ringrazio per la disponibilità in partenza per il Tour de France Maurizio Crosetti, firma di Repubblica. Buon pomeriggio Maurizio. Buongiorno a voi. Beh, cambia la faccia la Juventus Carlitos Tevez o no? Beh sì, la cambia l'espressione, ecco, più che la faccia. La sua espressione è così tipica, lo chiamano Apache, non per niente, quelle cicatrici in faccia un po' come Ribéry o sono bruciature, insomma sono segni di una vita vissuta soprattutto da ragazzo, da giovane, per strada, duramente, segni di chi non è stato allevato nella bambagia, neanche a livello calcistico. Infatti ogni tanto Tevez fa anche un po' il mattacchione, ecco, per così dire. È un bel caratterino, però è anche un grande giocatore che arriva alla Juve forse con qualche anno di ritardo rispetto al top che potrebbe essere. Ogni volta che dico top mi viene in mente Crozza che imita Briatore. Diciamo che forse non è il top del glam, ecco, non è un giocatore da sogno, però sì. Il sogno di Marotta. Che da ieri sera si è tolto una bella scimmia dalle spalle. Diciamo la verità, lo aspettavano tutti col fucile puntato. Fosse ritornato da Manchester con l'ennesima delusione, una delusione alla Bentner per intenderci, cioè arrivare al 30 agosto anche di quest'anno senza aver preso quell'attaccante che fa sognare, tanto per restare in tema, io credo che i tifosi della Juventus l'avrebbero forse linciato fra virgolette, Beh sì, già che abbiamo cominciato con Crozza potremmo dire che sarebbe stata una grossa delusione di diludendo. Poi smetto. Sì, l'avrebbero non linciato, ma si sarebbero chiesti davvero il motivo per cui la Juve da tempo, da anni, cerca questo top player che poi alla fine non arriva mai o quasi mai, anche se poi in definitiva Pirlo è un top player e come, e l'hanno preso per un tozzo di pane, Barzagli lo stesso, altri no, Malacca Martinez no, Bentner no, Anelka no, nel senso che nel dai e vai, nel dare e nell'avere, il mercato propone sempre situazioni variegate, insomma, no? Ma Tevez non si discute. Ora bisognerà capire tutto il resto, cioè Tevez Llorente, in teoria una coppia molto ben assortita, però Vucinic è anche il giocatore più talentuoso, anche se non fa troppi gol, e non potrà essere certamente escluso. Si alterneranno, la Juve punterà decisamente alla Champions, il campionato non può mollarlo, e sarà una stagione complicata, la concorrenza si rinforzerà, e Matri e Quagliarelli in qualche modo dovranno essere ceduti, o alcuni dovranno essere ceduti. Insomma, è un bel insieme, una bella insalata di domande, però sono convinto che i tifosi della Juve oggi più che le domande abbiano avuto la risposta intanto dell'arrivo di questo, della Pash. È una Pash che può far sognare molti scalpi, ecco. Sì, ho l'impressione che Conte avrà un po' di lavoro a spiegare a Vucinic, ammesso che Vucinic resti, che non è più centrale nel suo progetto, che dovrà dividere spazi e minutaggi con l'Oriente, con Tevez, chissà magari con Jovetic o qualcun altro. Ho l'impressione che Conte avrà questo impegno e non sarà semplice, così come non sarà semplice l'impegno di Marotta, cioè cercare di non svendere qualcuno dei sei attaccanti che è in rosa. È così, ma nel momento in cui tu hai bisogno di vendere un giocatore, quegli altri, nel senso i potenziali acquirenti, non te lo comprano, non te lo stracomprano certamente, no? È come quando tu hai bisogno di vendere una casa perché hai già comprato l'altra, hai già fatto il mutuo, e se si viene a sapere ti offrono meno di quanto vale e tu sei obbligato a venderla perché hai bisogno dei soldi. Non è proprio lo stesso esempio, però diciamo che Matri non è una mansarda e Quagliarello non è un box auto, però il rischio è un pochino quello. Indubbiamente lo Juve dovrà vendere, e Vucinic dovrà forse darsi una mossa. La concorrenza o lo sveglia del tutto dall'indolenza o gli farà cambiare squadra. Certo, se la Juve prende anche Jovetic, non vedo grandi spazi per Vucinic. Oggettivamente, per questo Vucinic, che fa delle cose bellissime, poi però avresti voglia di prenderlo a sberle un attimo dopo, perché si siede sul pallone, guarda per aria e non mette a frutto il talento, per certi versi smisurato, che la natura gli ha dato e che lui secondo me spesso spreca. In fondo nell'ultima stagione è stato più discontinuo che decisivo Vucinic, che resta comunque un ottimo giocatore. Per chiudere, Maurizio Crosetti, l'epilogo di questa vicenda, l'epilogo anche della sfida tra Juventus e Milan per Tevez, segna un cambio d'epoca. Oggi qualcuno l'ha scritto commentando il blitz di ieri di Marotta e Paratici a Londra, cioè segna la fine di un certo modo di fare mercato del Milan e di Galliani, che si sono dovuti arrendere anche davanti alla impossibilità finanziaria di andare a prendere Tevez, e non sono più riusciti ad esercitare quel fascino per bloccare l'affare. Ci hanno provato in tutti i modi, facendosi fotografare con l'agente del giocatore, facendo girare la voce che c'era stato anche un incontro segreto. È così, non si affascina più nessuno, come si dice, bambole non c'è una lira, bambole non c'è un euro, qui bisogna arrivare con i soldi in bocca e ti danno il cammello se vedono il denaro, se no il cammello te lo tieni oppure lo sogni, e questo vale per tutti. Devo dire, il Milan è stato corretto, Galliani lo ha detto prima, i suoi tifosi non li ha illusi, ha detto noi possiamo comprare solo dopo aver venduto, è un po' un rovesciamento di universo, no? Anche se poi quando vuole il Milan compra e come ancora, con i soldi di Berlusconi o i propri, vedi Balotelli, grandissimo acquisto, non bisogna dimenticarlo, il vero colpo dell'ultimo mercato è stato Balotelli e l'ha messo a segno il Milan, quindi intanto poi bisognerà vedere se la Juve con Tevez ha fatto 1-1, di sicuro sono più vicine a livello di potenzialità, di possibilità economiche, questo forse, speriamo, potrebbe aumentare anche l'equilibrio per un campionato che si pronuncia sicuramente molto interessante, e speriamo non a senso unico, anche se poi la Juve quel senso lo vuole come. E speriamo ben equilibrato. Grazie a Maurizio Crosetti. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Maurizio Crosetti di Repubblica. 800 24 00 24, ci fermiamo per il traffico. Ti riporto quello che scrivo. Io non avevo, sì, è particolarmente nervoso per la è una settimana che dico che chi deve andare su Tevez ci vada e si svegli. Ma non ti riesco a andare, si sono svegliati, da dopo 2 anni si sono svegliati. Top player doveva andare, dovevano prendere l'anno scorso, poi è arrivato Bentner, dovevano prenderlo a gennaio, poi è arrivato nel chiaro. L'anno scorso hanno fatto, adesso non devo fare il difensore della Juve. Tutti convocati. Sul lavoro non ci si diverte, Per me il lavoro è una cosa molto seria. Se ti stai divertendo, probabilmente non stai lavorando bene. Si sta divertendo Carletto Ancelotti in questi minuti, sta finendo la conferenza stampa di presentazione al Santiago Bernabeu, ne parliamo dopo le 14.30 con Federico Casotti. Vi dico, Carlo Ancelotti bocciato, quantomeno rimandato in spagnolo, ma ve lo faremo anche sentire. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi, oppure potete scriverci su Twitter @ tutti convocati, come Beppe, sicuri che non possa venire il colpo di scena del Milan su Tevez? Penso di no, penso che Tevez sia un giocatore della Juventus e manchi davvero soltanto il passaggio burocratico delle visite mediche e della firma sotto il contratto. Raffaello, oggi si esalta Marotta per il primo colpo in 2 anni e mezzo e con un Tevez in parabola non crescente, non è esagerato? Marotta ha vinto gli ultimi 2 campionati, ha contribuito a vincere gli ultimi 2 campionati, quindi io credo che comunque il bilancio di Marotta sia assolutamente positivo. C'era questo piccolo o grande a seconda dei punti di vista dell'incapacità sul mercato internazionale di far valere il peso della Juventus. Da questo punto di vista Tevez è un acquisto che colma questa difficoltà. Cominciamo con le telefonate. Massimiliano da Bologna, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A lei. Ascolti, io sono un tifoso juventino, quindi oggi dovrebbe essere una giornata sì, abbastanza felice per me. Però tengo a precisare 2 cose. La prima, che io questa primavera ho sentito un'intervista di Andrea Agnelli che si vantava, insomma, di aver preso Pirlo, Vidal e Pogba per pochi milioni di euro tutti e tre. Però insomma ci dimentichiamo delle tonnellate di milioni che abbiamo speso per prendere Elia, Melo, Paulsen, Martinez e compagnia bella. Quindi bisogna sempre stare attenti quando compri un giocatore a andare avanti con le fanfare, perché poi bisogna vedere a lato pratico se è un giocatore che serve a te. E per me questo giocatore qui, che ha i piedi molto buoni, è molto pericoloso. Mi ricordo un po' il nostro Cassano. Quindi è un giocatore che se lo metti in panchina nella giornata sbagliata è capace di fare delle gran bufere. E poi l'altra cosa, volevo dire, la Coppa Campioni sì, ok, ma penso che al massimo riusciamo ad andare avanti di un turno, perché ai livelli di Barcellona, che sta costruendo un mega squadrone. Sì, la Juventus resta ancora un gradino sotto rispetto a quelle. Su questo sottoscrivo anche che Tevez in qualche modo dovrà ambientarsi alla realtà della Juventus, dico di più, alla realtà anche del campionato italiano, perché il campionato inglese è profondamente diverso anche dal punto di vista dell'approccio, e lo hanno raccontato i tecnici che hanno allenato lì, a partire da Fabio Capello. Dal punto di vista tattico io credo che Tevez sia una scelta giusta, soprattutto se il titolare, la prima punta sarà l'Oriente o qualcuno di simile. Tevez non è una prima punta, è una seconda punta, fa rendere al massimo chi gli gioca a fianco. Il resto sono problemi di Conte. Torniamo un attimo a parlare dell'inchiesta di Napoli. Oggi sulle pagine di tutti i giornali, comprese le ricostruzioni di come procuratori, società e giocatori aggiravano il fisco. E allora noi abbiamo scelto di parlarne insieme a Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, perché Zamparini negli anni scorsi è stato tra i pochi presidenti ad avere rapporti difficili con il mondo dei procuratori. E allora lo abbiamo convocato per fare una chiacchierata. Buon pomeriggio, presidente. Buon pomeriggio a voi. Presidente, oggi molti scrivono che il calcio italiano è l'alba di una bufera che lo scuoterà dalle fondamenta. Lo pensa anche lei o, come spesso è capitato in passato, è un'inchiesta, sono rivelazioni, sono scoperte che poi lasceranno poca traccia? Non lasceranno quasi nessuna traccia. Noi siamo abituati in questo paese agli scoop e poi andiamo, quando andiamo a fondo... Ecco, questo grande clamore non lo capisco. È una situazione delle intermediazioni dei procuratori del calcio che va risolta all'interno del mondo calcio, con dei paletti precisi che non ci sono. Per cui c'è una situazione, secondo me, abnorme, dove i procuratori, invece di essere pagati dai giocatori, caricano i costi di solito sulle società. E poi naturalmente le procure fanno bene attenzione se trovano dei capitali che naturalmente, o delle furbate che fanno andare i capitali all'estero, o dei mascheramenti vari, insomma che ci siano delle regole precise, che però ecco dovrebbero essere tutelate dal calcio, non dalle procure. Certo, pare di capire che tutti sapessero tutto di questo sistema, però nessuno si è mosso, almeno fino a ieri. Perché?

Okay. Grazie presidente. Prego. E agghiacciate quello che dicono che ho sentito. Giustizia è morta. Giustizia sportiva morta al doppio. E che un campionato di Serie A, signori, lor signori, sia accusato di fratture false. Questo gioco del calcio sempre messo sotto la lettera di gradimento, signori miei. Secondo lor signori della guardia che si fidanza, ci sarebbero questi benedetti reati fischiati. E agghiacciate, signori miei, io ho paura. Un gioco del calcio messo sotto la gonna mediatica è una macchina del tango, bella e buona. E come diceva il premio Oscar Luigi Scalfaro, io non ci sto di petto. Non vi piaccio perché vinco. Chapeau. Tutti convocati. Iaquinta nel CA, Bentner non sono più a libro paga della Juventus, o meglio non saranno più a libro paga della Juventus a partire dal 1 luglio, perché il contratto di Iaquinta scade, quello di Anelka pure, e Bentner verrà rispedito all'Arsenal. E così abbiamo risposto a un amico che ha scritto su Twitter, chiocciola tutti convocati, 800240024, Franco da Milano, che ringrazio per la pazienza. Franco, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Buongiorno a tutti. Ascolti, tre cose velocissime. Sì. La prima è che sono stato il faraone. Il faraone? Sì. Il secondo, come mai Gagliani si è fatto soffiare Tevez, che era il suo chiodo fisso? E il terzo? E il terzo è come tutti gli estati c'è sempre il scandalo del pallone. Sì. Per me, certo, secondo me, perché ci sono delle pene un po' troppo grandi. Può essere, e soprattutto c'è poca certezza della pena, basti capire e seguire quella che è la parabola, ad esempio anche nella vicenda del calcio scommesse, dalle richieste di Palazzi alle sentenze di primo e secondo grado, e al TNAS che di fatto applica sconti più o meno a tutti. E il Shaarawy è in panchina, soprattutto è sul mercato, lo ha spiegato ieri Franco Ordine, però deve arrivare un'offerta importante. Scrive un amico al 349-238-6666, ma il Milan, se vende al Real Madrid il Shaarawy e prende 35-40 milioni, non può poi comprare Cavani aggiungendone 15. Il problema è che non arriveranno mai 35-40 milioni in contanti. Non sarebbe male, ha ragione, ma il problema è che è una triangolazione irrealizzabile. Claudio da Mantova, buon pomeriggio. Sì, buongiorno. Prego. Buono. No, senta, io sono un attimino perplesso, vorrei fare una considerazione. Dica. Sull'acquisto lì della Juventus. Allora, o la cifra non è vera, oppure non è assolutamente un prezzo da top player. Ricordiamoci che la Juve ha pagato 13 milioni Krasic. E l'Inter sta pagando 10 milioni più o meno, anche se ci sono delle contropartite, la metà di Belfodil. Però Claudio, Tevez è un giocatore in scadenza di contratto, cioè fra sei mesi, a partire dal 1 febbraio del 2014, Tevez è libero, sarebbe stato libero di firmare con chiunque andando via gratuitamente, e quindi il suo valore di mercato crolla. Probabilmente è per quello, però no, è certamente per questo. Tevez ha comunicato al Manchester che non aveva l'intenzione di rinnovare il contratto, probabilmente lo stesso Manchester non aveva intenzione di prolungare un rapporto che durava ormai da diverse stagioni, e quindi questa era l'ultima finestra di mercato disponibile per vendere Tevez e incassare qualcosina, che è certamente meno del suo valore attuale, però è il prezzo che fa il mercato, e difatti nessuno si è presentato al Manchester offrendo di più. Grazie Claudio. Matteo da Treviso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori. Senta, io volevo intervenire riguardo a Marotta. Ho sentito prima che qualcuno criticava gli anni passati, però mi rilascio anche al discorso che faceva lei. Marotta ha vinto 2 scudetti, quindi credo che l'operato vince la società e perde la società, quindi grossi meriti ce l'ha l'allenatore, ma sicuramente tutto quello che sta dietro anche l'allenatore, tra cui Marotta. E poi inoltre vorrei ricordare che Conte, se non erro, quando è arrivato Pirlo non era molto d'accordo sull'arrivo di Pirlo, ed è stato Marotta a portare Pirlo alla Juve. E per quanto riguarda Melo e Krasic, sono ancora diciamo degli acquisti fatti dalla dirigenza. Sì, dalla precedenza, dalla precedente dirigenza. Poi gli errori li ha fatti anche Marotta, li ha fatti Paratici e probabilmente li rifaranno ancora, ed è tutto da dimostrare che Tevez alla fine abbia il rendimento che in questo momento è nelle speranze dei tifosi della Juventus. Però lo sottoscrivo, il bilancio di Marotta è certamente positivo in queste due stagioni. Grazie Matteo, facciamo un salto a Madrid, sala stampa del Santiago Bernabéu. Molta emozione. Sto molto felice di stare qui. Non è facile parlare spagnolo, ma voglio a migliorare rapido. Molto felice di stare qui nel club più prestigioso al mondo. Il club. Muy feliz de estar aquí, voy a migliorar rápido, mi raccomando Carletto, rápido però, perché è uno spagnolo a dir poco scolastico. Federico Casotti, buon pomeriggio. Eccoci qua, beh, insomma, 20 anni fa chi l'avrebbe mai detto che Ancelotti si sarebbe espresso in 4 lingue addirittura, escludendo il dialetto emiliano. Diciamo, Federico, storia, diciamo 3.5, dai, diciamo 3.5 perché spagnolo è assolutamente rivedibile. Io penso che qualunque ragazzo italiano sulle spiagge spagnole dopo un paio di giorni parla questo spagnolo, Ancelotti dovrà fare meglio. Io credo che la sua sfortuna sia arrivare 3 giorni dopo Guardiola, che ha parlato invece un tedesco perfetto. Sì, va detto anche che Guardiola ha probabilmente più tempo per programmarsi e per riuscire comunque a farsi trovare pronto, peraltro con una difficoltà nettamente superiore. Insomma, per uno spagnolo imparare il tedesco è molto più difficile che per un italiano imparare lo spagnolo. E si può dire, magari si può anche dire con una punta di malizia, che Ancelotti già da tempo, magari più o meno con le stesse tempistiche di Guardiola, era già entrato nell'ordine di idee di andare a Madrid. Però è anche vero che tutto questo tira e molla, questo lasciare in sospeso il suo incarico fino a ieri, evidentemente, insomma, ha indotto Ancelotti a concentrarsi soprattutto sul francese, almeno fino a ieri, finché non c'è stato il via libera. Sì, c'è chi mi segnala che è già un passo avanti rispetto al debutto con la stampa parigina, quando aveva parlato in dialetto, e quindi è già un passo avanti quello di Ancelotti. Florentino Perez ha detto: Ancelotti è qui semplicemente per un obiettivo, rifare al Madrid quello che ha fatto altrove, e cioè vincere. Poi loro hanno in testa la decima, la Coppa dei Campioni che stanno inseguendo oramai da tempo immemore. Penso e mi sembra di poter dire che il presidente del Real non abbia perso tempo nel caricare anche di responsabilità questo debutto di Ancelotti. Ma è innegabile che sia così, e tutto sommato è anche insito nel curriculum di Ancelotti da allenatore avere questo tipo di aspettative, perché dovunque è andato ha vinto con il Chelsea, ha vinto con il Paris Saint Germain, ovviamente ha vinto anche con il Milan, e per quanto magari ovviamente partisse quasi sempre da favorito con queste squadre, però non erano comunque vittorie scontate, anche con il Paris Saint Germain di quest'anno, per quanto la squadra fosse nettamente più forte, però è riuscito ad uscire indenne soprattutto da certi periodi, ricordiamoci a dicembre quando si parlava addirittura di esonero. E io credo che il Real Madrid e in generale la Spagna si aspettino da lui serenità dopo 3 anni ad alta temperatura con José Mourinho. Già ieri mi ha colpito il titolo di Marca, che lo definiva il ganador discreto, il vincitore discreto. È stato anche definito il pacificatore. Esatto, ma perché io credo che sia nell'interesse del Real Madrid, ma anche della nazionale spagnola, perché questa contrapposizione estremizzata tra Real Madrid e Barcellona ha rischiato di far implodere anche lo spogliatoio della nazionale. E quindi io credo che ci si aspetti da Ancelotti, da questo nuovo ciclo a Real Madrid, serenità attraverso la quale riuscire ad ottenere quelle vittorie che non sono arrivate con Mourinho. Prova ne è il fatto che nessun giocatore del Real Madrid voglia seguire José Mourinho al Chelsea e che si parli comunque di un Real Madrid che riparte da Ancelotti, ma senza almeno sulla carta delle rivoluzioni di mercato. E siccome Carlo Ancelotti è uomo di mondo, oggi tra le prime cose che ha detto ha sottolineato che Casillas merita di giocare e che allenare Cristiano Ronaldo è un onore, così per mettere già un punto fermo, una differenza rispetto a quella che è stata la gestione di Mourinho. Esatto, ma io credo proprio che alla fine di rivoluzioni se ne vedranno poche. Sono due punti fermi importanti, perché Casillas è stato messo in discussione in maniera quasi umiliante quest'anno da José Mourinho, e su Cristiano Ronaldo le voci nell'ultimo periodo si erano fatte pressanti. È chiaro che mettere due punti fermi di questo tipo, oltre al benvenuto che è arrivato dal Brasile da parte dei senatori della nazionale spagnola e dello spogliatoio del Real, penso a Sergio Ramos, sono tutti presupposti perché questa squadra non abbia bisogno di essere smantellata, ha semplicemente bisogno di tirare un gran respiro, sgombrare la mente e il corpo dalle tossine che si sono generate in questi 3 anni di tensione e riuscire ad andare avanti per la propria strada, come detto, con più serenità. E in questo senso non poteva esserci che nomina migliore per il Real Madrid con Ancelotti. Sì, Ancelotti ha il privilegio che non hanno avuto gli eredi di Mourinho al Chelsea, ad esempio, o all'Inter, e cioè ha il privilegio di entrare in un ambiente, in una spogliatoio che non è pieno di vedove inconsolabili, ma anzi non ne poteva più di liberarsi del portoghese. Federico Casotti, Sport Italia, ti chiedo un minuto di pazienza, ci sono le notizie sul traffico, poi torniamo. 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Traffico. Tutto il mondo conosce la decima, io penso che è un gran obiettivo. La decima è una motivazione tan grande che può aiutare a tenere un grande motivazione del lavoro. Tutti convocati. 800 24 00 24 per le vostre telefonate in diretta. Intanto una notizia di mercato: Flamini sta trattando il rinnovo con il Milan, il suo agente sta incontrando Adriano Galliani e quindi Flamini potrebbe proseguire la sua avventura a Milanello. Federico Casotti, giornalista di Sport Italia, per chiudere il ragionamento sul Real Madrid e sul giorno del debutto di Carlo Ancelotti, sono anche curioso di vedere quale sarà il ruolo ritagliato a Zidane. Oggi Ancelotti ha detto che Zidane andrà in panchina, sarà un suo assistente. Ho l'impressione che però la figura di Zidane sia molto più simile, ad esempio, mi viene in mente un paragone, a quella che Leonardo ha rivestito nel Milan, poi anche nell'Inter, ma anche nel Paris Saint-Germain. È probabile, con il fatto non da poco che Ancelotti e Zidane si conoscono bene, perché hanno lavorato insieme alla Juventus negli ultimi 2 anni dell'esperienza del francese in bianconero. Io credo che sia una posizione probabilmente anche di grande garanzia nei confronti di per Ancelotti, come tramite tra la società e lo stesso tecnico emiliano. È una situazione che alcuni allenatori non hanno gradito in passato e che però per Ancelotti sembra evidentemente anche una situazione importante, anche perché Ancelotti ha comunque dalla sua il desiderio di concentrarsi esclusivamente sul campo e quindi di lasciare a un'altra figura eventuali mediazioni e altri discorsi che magari altri allenatori un po' più moderni invece preferiscono affrontare in prima persona. Il fatto che Zidane abbia comunque il patentino da allenatore potrebbe magari in futuro magari cercare per eludere anche a un possibile fantasma di Zidane, qualora le cose non dovessero girare per il verso giusto e contando il forte carisma che ha il francese nell'ambiente madrileno. Ma per il momento mi sembra una figura di garanzia della quale Ancelotti per certi versi ha bisogno e che sicuramente non ha disincentivato. Mi sembra comunque una presenza importante anche per cercare di riuscire a farlo ambientare. Vedremo che tipo di ruolo avrà Zidane, per il quale peraltro si era parlato anche di una possibile carriera da allenatore di prima, a un certo punto come traghettatore qualora il Paris Saint-Germain non avesse liberato Ancelotti. Alla fine i due si sono comunque ritrovati. Sì, da Twitter: Ancelotti il migliore per intelligenza e capacità professionale rispetto a Mourinho, è un passo avanti. Io penso che siano entrambi due tecnici eccezionali, ognuno ha la sua caratteristica, ognuno ha la sua particolarità. Al Real Madrid serviva qualcosa di molto differente rispetto a Mourinho. Ancelotti da questo punto di vista è il profilo perfetto. E poi ti chiedono di Ancelotti, che è un allenatore che ha vinto molto, ma anche perdere uno scudetto contro una squadra come il Montpellier non è da tutti, perché la carriera di Ancelotti è fatta anche di grandi cadute, anche in Italia. Prima di riuscire a vincere il suo primo titolo con il Milan era considerato il perdente perfetto. Sì, ma io credo che lo scudetto perso contro il Montpellier fu un'utile lezione per Ancelotti e per il suo staff, che si presentarono, lo ricordiamo, a metà stagione, già prima in classifica, dopo aver accreditato la squadra da Comboiré, però evidentemente con poca umiltà, conoscendo poco il calcio francese e sottovalutandolo in questo senso, commettendo un errore che molti dall'esterno fecero anche in Italia nell'analizzare quel campionato del Paris Saint-Germain. Io credo che quella lezione sia servita ad Ancelotti innanzitutto per vincere il campionato che si è appena concluso e in generale anche per imparare a considerare davvero a non dare mai nulla per scontato. In altre situazioni passate ci fu parecchia sfortuna. Io credo che l'unico campionato realmente perso, diciamo non per colpa di Ancelotti, ma con degli errori oggettivi da parte del tecnico emiliano, fu proprio quel semestre al Paris Saint-Germain. Però si sa che i grandi allenatori, a volte non solo Ancelotti ma anche tanti altri, passano anche attraverso cocenti sconfitte per riuscire poi a prendere una rincorsa più lunga. Il titolo vinto quest'anno dal Paris Saint-Germain lo dimostra. E insomma, si parte anche dalle grandi sconfitte. Grazie Federico Casotti. Grazie a voi, buon pomeriggio. Grazie a Federico Casotti, collega di Sport Italia. 800 24 00 24. Partiamo da Udine. Roberto, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Prego. A voi. Io volevo riallacciarmi all'intervento del presidente Zamparini. Dica. Perché condivido pienamente il fatto che i procuratori spesso fanno i mediatori, però questo è un grosso errore, nel senso che lo scopo del procuratore è quello di aiutare il calciatore nella stipula o nel rinnovo di un contratto, oppure nel mettere le proprie prestazioni a servizio delle società che vogliono avvalersi di un calciatore. Entrambe le cose, per il regolamento FIGC presente in Italia, per il regolamento FIFA, non sono possibili. Quindi le regole ci sono, basterebbe farle rispettare. Vuol dire che se io ho la procura del giocatore, non posso avere anche la procura della società per negoziare le prestazioni del giocatore stesso. E viceversa, se ho il mandato della società per acquisire un giocatore, non posso avere la procura del giocatore stesso. Però evidentemente purtroppo questo non sempre accade, oppure, ed è quello che stanno cercando di capire anche i magistrati di Napoli attraverso questa serie di acquisizioni, attraverso questa inchiesta, esiste una zona grigia poco regolamentata o comunque differentemente interpretabile di società attraverso cui appoggiarsi, perché poi la realtà è questa. Io oggi ho letto anche con un sorriso le paginate su tutti i giornali che descrivono come si può frodare il fisco, e sono cose di cui spesso si parla. Roberto, mi corregga se sbaglio. Sì, ripeto, perché comunque il fatto che le regole ci siano e che non vengano applicate o vengano disattese un po', perché forse probabilmente fa comodo a tutti, fa sì che si arrivi a questa situazione. Lei lavora nel campo, lavora nel calcio, lavora... Sì, sì, io sono un agente FIFA e per questo ne parlo con cognizione di causa, sono un procuratore, e si arriva poi a dire il re è nudo, però le regole, ribadisco, ci sono, e basterebbe farle rispettare. Ho l'impressione, Roberto, che spesso siano comunque anche le società, Zamparini lo diceva, soprattutto le grandi, che magari si devono muovere molto all'estero e hanno bisogno di entrature, di biglietti da visita, credo ci sia una connivenza da questo punto di vista. Ma diciamo che lavorando con l'estero purtroppo questo può accadere, questo è vero. Riferendoci però al caso italiano, cioè il regolamento parla chiaro. E di conseguenza, se effettivamente tutti si attenessero alle regole, non si arriverebbe a queste situazioni, non ci sarebbe lo spazio per muoversi, anche con l'attività di scouting che a volte veniva usato, poi ci sono state anche delle sentenze degli organi FIGC che punivano alcune società che, avvalendosi di presunti scout, andavano a pagare commissioni. E l'attività di scouting sappiamo che è riservata solo ai direttori sportivi. Sarebbe l'ideale se da questa ennesima bufera nascesse qualcosa di nuovo e di diverso. Io personalmente ho qualche dubbio. Grazie comunque, Roberto. Toni da Teramo, buon pomeriggio. Buongiorno. Prego. Senta, io volevo intervenire sul mercato della Juve, a parte la felicità per l'acquisto di Tevez, perché erano 2 anni che speravo questo tipo di acquisto, ma volevo dire anche che secondo me questo rincorrere della Valle su Jovetic, su quelle cifre, mi sembra per un giocatore del genere una cifra spropositata. Né non penso sarebbe più il caso di virare su uno come Rooney, che secondo me potrebbe anche cambiare aria, e su quelle cifre ci potrebbe stare, magari con una contropartita tecnica. Da sapevo che il Manchester seguirà Vucinic. Sì, io credo che Vucinic sia indirettamente sul mercato dopo l'arrivo di Tevez, perché è un giocatore che secondo me difficilmente può non essere una prima scelta nel progetto di Conte, e difficilmente Conte possa convincerlo, però deve arrivare una buona offerta, altrimenti Vucinic si ferma, mentre credo che andrà via a qualsiasi prezzo almeno uno fra Quagliarella e Matri, se non tutti e due. Credo però che da oggi inizi un mercato diverso per Marotta e per la Juventus, un mercato se possibile ancora più difficile di quello che si è chiuso ieri con l'accordo di Tevez e insomma la chiusura di questa telenovela, perché è molto più difficile vendere a questo punto che andare ad acquistare. Grazie Toni. Vi ricordo anche che domani c'è Italia-Spagna, e allora sentite la vigilia di Marchisio a proposito anche della nuova inchiesta, della nuova bufera sul calcio italiano. La nostra nazionale è abituata ad avere questi problemi, soprattutto quando ci sono competizioni importanti. Ha sempre portato bene. E allora speriamo che porti bene anche questa volta, questa sera Brasile-Uruguay, ne parleremo domani. Domani parleremo anche della vigilia di Italia-Spagna. Noi ci fermiamo qui, io ringrazio Robby Scaltritti in regia, Franco Piantanida che è l'autore di questa puntata. Un saluto anche da Giovanni Capuano, l'appuntamento con tutti i convocati è per domani a partire dalle ore 14.